Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. C'è chi l'ha definito il decennio lungo del secolo breve, gli anni 70. Un concentrato di fatti, eventi, storie, tensioni, scontri destinati a segnare per sempre il nostro tempo. Tutti gli anni di questo decennio straordinario sono un condensato di emozioni indimenticabili. Oggi lo sguardo di Destini Incrociati si concentra sul 1977. Accadono molte cose in quell'anno, tutte straordinarie, tutte fondamentali, non tutte felici. Qualche esempio? Beh, prendiamo l'Italia. Siamo forse nell'anno più caldo dei conflitti tra Stato, Brigate Rosse e gruppi neofascisti. Non ci sono stragi, ma decine di omicidi, episodi di violenza, brutali avvertimenti a colpi di proiettile. Il piombo scorre a fiumi. Dopo un'animata assemblea del movimento degli studenti all'interno dell'Ateneo di Roma per decidere le forme, i luoghi e i tempi di una manifestazione di protesta per la morte del militante di lotta continua Walter Rossi, circa 3.000 giovani sono usciti stamane in corteo dalle facoltà in cui erano riuniti, dirigendosi verso Piazza Bologna, poco distante dall'università, dove si trovano alcune sedi del movimento sociale. La reazione del governo a questa situazione non è delle più illuminate. Il ministro degli interni Cossiga arriva addirittura a far sfilare i carri armati a Bologna, in città, per sedare una lunga protesta sfociata in disordini. È un anno di svolta anche per la televisione. La RAI manda in pensione Carosello e apre agli spot. Inizia, con grave ritardo rispetto agli altri paesi occidentali, la trasmissione a colori. Viene inoltre rotto il monopolio di Stato, diventano legali le trasmissioni da parte di emittenti private. A tutti quelli che ci seguono in questo momento da casa in televisione e tutti i nostri invitati che sono intervenuti così gentilmente alla nostra inaugurazione, venisse qui per prendere la parola l'editore, si chiama così, l'editore della nostra televisione di Telemilano, che tutti voi sapete è Silvio Berlusconi. Mentre il governo procede all'abrogazione dell'Epifania e vengono arrestati Valanzasca e Turatello, mentre Dario Fo porta in televisione Mistero Buffo, provocando una dura reazione del Vaticano e della Democrazia Cristiana, dal resto del mondo arrivano mode, suggestioni, tendenze che compensano la pesantezza plumbea di quegli anni cupi. Si afferma il punk, con Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols e i vestiti di Vivian Westwood. Bob Marley raccoglie gli ultimi successi della sua carriera, i Queen invece i primi. Mentre muore Elvis, nascono i Dire Straits e i Def Leppard. Al cinema, invece, arriva Guerre Stellari di George Lucas. In quell'anno arriva anche un altro film che è più di un film. È un inno generazionale. È un'invocazione alla leggerezza, alla spensieratezza, al ballo, al divertimento, come risposta univoca dei giovani di tutto il mondo a chi fa delle divisioni ideologiche una costante ineliminabile. Non è qualunquismo, ha più il sapore di una tregua, di una pausa, di una febbre. La febbre del sabato sera. La febbre del sabato sera è il film che rappresenta forse più di ogni altro lo spirito che aleggiava negli anni 70. Al di là della politica e delle ideologie, fuori dalle differenze tra stati e nazioni, ci sono sensazioni, brividi che non si possono raccontare se non attraverso pantaloni a zampa d'elefante, paillette, gel, camicie con colletti vertiginosi. John Badham è il regista del film, ma il merito del grande, colossale e planetario successo della pellicola non è suo. È in larga parte dell'attore protagonista chiamato a interpretare il ruolo del mitico Tony Manero. È un attore italo-americano. Si chiama John Travolta. John Travolta. Osservo che Barbara Bulino che avete appena sentito è uno spezzone della serie televisiva che ha lanciato Travolta. Si intitola I ragazzi del sabato sera e John interpreta la parte di Vinnie Barbarino, un giovane bullo scapestrato che ha la particolarità di insultare chi gli si para davanti con rime e filastrocche esilaranti. La serie è un grande successo negli States, un fiasco in Italia. John Joseph Travolta è nato a Englewood, in Colorado, il 18 febbraio 1954. Con i cinque fratelli, sin da giovanissimo, intrattiene amici e parenti con recite, canti e balli. I genitori si convincono presto che la sua strada sia nello show business e, impressionati dal grande talento che John evidenzia subito nel ballo, lo spingono a prendere lezioni. Il suo maestro è Fred Kelly, fratello del grande Gene Kelly. I genitori ci hanno visto giusto. A 18 anni, Travolta è già a Broadway nel musical Rain. È a Broadway che i produttori di I ragazzi del sabato sera lo vedono e decidono di scritturarlo. Partecipa nello stesso periodo alle riprese di un altro film, Il maligno. Tutte cose buone, che rendono John una promessa, ma è ancora poco più che uno sconosciuto che balla divinamente. È per questo che John Badham ha coraggio quando lo sceglie per La febbre del sabato sera. Travolta è perfetto per quella parte. Nel suo corpo flessuoso e snodato sembra albergare lo spirito degli anni 70. Travolta è Tony Manero, un ragazzo italo-americano che vive nelle periferie di New York sbarcando il lunario. Il momento più importante della settimana per lui è il sabato sera, quando può dominare la scena delle discoteche che frequenta. Sarà la conoscenza di Stephanie, una giovane ballerina che però proviene da un ceto sociale più elevato e ha un'idea più profonda della vita, a far capire a Tony che è necessario prendere in mano la sua vita in maniera più decisa. Tra luci stroboscopiche e balli sfrenati, La febbre del sabato sera segna la cultura popolare e tocca tematiche giovanili molto vicine ai ragazzi dell'epoca, come il bullismo e l'uso di stupefacenti. John Travolta diventa l'idolo di milioni di teenager, che non dimenticano la scena del ballo con la sua partner, Karen Lynn Gomey, sulle note travolgenti dei Bee Gees. Il mio personaggio, Tony Manero, era un personaggio unico. Oggi non potrebbe più esistere un personaggio così, interessato solo al presente. Era un ritratto generazionale. C'è una battuta nel film in cui mi chiedono: cosa farai se non potrai più ballare? E io rispondo: non lo so, ma per ora quello che faccio è continuare a ballare. Anche John non pensa al futuro, balla, semplicemente balla. Il secondo grande colpo arriva con Grease. What could be Grease Lightning? Grease Lightning! Some overhead lifters and four bell pods, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off in chrome fitted rods, oh yeah. We hit already, Marshal, we hit already. With the four speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't a shit, we're the get licensed. Grease Lightning. Grease è un musical di grande successo che debutta a Broadway nel 1972, scritto da Jim Jacobs e Warren Casey. È rimasto in cartellone per quasi 12 anni e ha visto esordire nella parte del protagonista maschile un ottimo Richard Gere. Poi nel 1978 arriva la versione cinematografica. A dirigerla Randall Kleiser. Gere rifiuta la parte. I due protagonisti allora sono John Travolta e Olivia Newton-John nei panni di Danny e Sandy. Due adolescenti innamorati, la cui storia è ostacolata da una serie di problemi adolescenziali legati al fenomeno delle bande giovanili. Il film ottiene un successo incredibile. Avevo visto Grease per la prima volta a New York in un teatro di Broadway. Diventò subito il mio show preferito e avrei desiderato assolutamente farne parte. Avevo 18 anni ai tempi. Chiesi di fare un'audizione. Non mi richiamarono per 5 anni. E mi hanno convocato per fare il film, probabilmente dopo aver visto La febbre del sabato sera. I duetti fra Travolta e la sua partner Olivia Newton-John fanno impazzire il pubblico di tutto il mondo. John è al top del successo. Se c'è una cosa che Hollywood ha insegnato sin dall'inizio della sua storia, è che il successo è una condizione di vita tra le più effimere. Lo show business non conosce gratitudine e riconoscenza. Non sa cosa sia il perdono. La macchina dello spettacolo spreme i suoi attori burattini e quando non possono offrire più nulla, li getta via. Il viale del tramonto è sempre dietro l'angolo, per tutti. Il pubblico, inoltre, ha sempre una memoria molto corta. Concetti che John Travolta impara molto bene, sulla sua pelle. Francamente, non so nemmeno spiegare cosa sia successo dopo Grease. Forse ho creduto troppo presto di essere arrivato. O semplicemente, la fortuna mi ha voltato le spalle. Improvvisamente, dopo il successo, le luci dei riflettori, l'amore e il calore dei fan, arrivano come fulmini a ciel sereno i primi grandi fiaschi. Blowout di Brian De Palma, Due come noi, o ancora con Olivia Newton-John, Urban Cowboy. Sono insuccessi al botteghino e la sua performance viene stroncata dalla critica. Stesso trattamento riceve Stayin' Alive, il seguito di La febbre del sabato sera, diretto da Sylvester Stallone. John continua a ballare, ma il successo, senza una spiegazione coerente, gli ha voltato le spalle. Nei primi anni Ottanta, inoltre, John ci mette del suo. Come spesso accade a Hollywood, rifiutare una parte può costare caro. E Travolta rifiuta parti che sarebbero state determinanti per lui. American Gigolo del 1980 e Ufficiale e Gentiluomo del 1982. Siccome il destino è un arbitro tutt'altro che imparziale, che ama divertirsi alle spalle di chi cerca di vivere la propria vita, a beneficiare dei suoi rifiuti è Richard Gere, che aveva rifiutato la parte di Danny nel Grease cinematografico. Gere diventa una star. Travolta finisce nel dimenticatoio. La trilogia di Senti chi parla, alla fine degli anni Ottanta, è l'unico successo degno di nota, ma è comunque una commediola innocua ben lontana dalle aspirazioni che John nutriva all'inizio della sua carriera. Ora il suo percorso attoriale sembra chiuso e destinato a un lento oblio. L'ironia del destino si coglie soprattutto dai rocamboleschi incroci che a volte stravolgono l'esistenza di personaggi apparentemente lontani tra loro che la sorte mette su binari convergenti. Per capire quale tipo di incrocio il destino ha in serbo per John Travolta, dobbiamo allontanarci da Hollywood e da Broadway, dai piani alti dello show business. Ci spostiamo a Los Angeles, ma rimaniamo verso la fine degli anni Ottanta. Anzi, per la precisione, ci spostiamo a sud-ovest di Los Angeles, a Manhattan Beach, una piccola località balneare di 30.000 abitanti, che la megalopoli californiana ha ormai inglobato fino a farne uno dei propri sobborghi. È la patria del beach volley e del surf. Qui, nell'epoca d'oro dei videonoleggi, un tizio che si chiama Lance Lawson ha aperto e dirige la videoteca più in della città. Si chiama Manhattan Video Archive. Ci si trova di tutto, dai blockbuster alle rarità. E si possono trovare anche commessi particolarmente competenti. Il primo dei due commessi si chiama Roger Avery. Vi dice niente? Beh, è un ragazzotto magro e alto che a metà degli anni 90 diventa sceneggiatore e regista a Hollywood. Ha diretto film come Killing Zoe e soprattutto Le regole dell'attrazione, dall'omonimo romanzo di Bret Easton Ellis. Prima ancora, però, scrive un film straordinario insieme a un ragazzo che è suo collega nel negozio di videocassette. Il film si chiama Le Iene. L'altro ragazzo è Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Lavorare in una videoteca è stato il fulcro della mia passione e invito chiunque l'abbia a non sprecare soldi in scuole, ma a guardare molti film, facendo propria ogni esperienza. È stato in quel posto che ho coltivato le mie passioni cinefile, Leone, Godard, De Palma, ma anche tutto il cinema di serie B, europeo e americano. Ero onnivoro, assimilavo e digerivo tutto, ogni cosa. Tarantino è anche estroso e creativo. Oltre a guardare qualsiasi cosa riesca a recuperare in videoteca, studia e scrive. E alla fine degli anni Ottanta partorisce la sua prima sceneggiatura. La fa leggere all'amico Roger Avery, che commenta così. Beh, Quentin mi ha fatto leggere questa sceneggiatura intitolata Una vita al massimo. E ho pianto. È una delle cose più commoventi che abbia mai letto. Questa sceneggiatura, scritta con passione, si leggeva come un romanzo. Ho telefonato a Quentin e gli ho detto: sei un genio, voglio scrivere e dirigere film, non voglio produrre, ma permettimi di essere il tuo produttore per questo. Abbiamo utilizzato lo schedario elettronico del negozio per sapere chi aveva soldi per racimolare 5, 10, forse 100.000 dollari. Una vita al massimo sarà diretto da Tony Scott e sarà il primo vero successo di Tarantino. È anche la prima tappa di una strada che porta Quentin verso l'incrocio con John Travolta, un incrocio che avverrà in un momento determinante per entrambi. Per il regista americano, però, c'è prima un altro incrocio importante con un altro attore americano. Tra poco, a Destini Incrociati. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. Destini. Oggi a Destini Incrociati stiamo raccontando la storia di un attore hollywoodiano che, come spesso accade, passa nel giro di pochissimo dalle stelle alle stalle. Si chiama John Travolta e dopo i successi di La febbre del sabato sera e Grease vede lo show business voltargli le spalle. Il riscatto gli verrà portato dal destino, un destino che arriva da lontano e dal basso. Da Los Angeles, ma non dalla Mecca del cinema, bensì da un'umile videoteca. È qui che si forma Quentin Tarantino. Il primo incrocio determinante per la carriera di Quentin Tarantino, comunque, è quello con un altro attore di Hollywood, Harvey Keitel. Mi è capitato per caso fra le mani un copione scritto da Quentin che si intitolava Le Iene. Ho chiamato subito il produttore, Lawrence Bender, e gli ho detto che volevo farlo. Siamo riusciti a dare al film un budget completamente diverso da quello iniziale. Anche Tarantino ricorda l'evoluzione del film con grande stupore. Il mio film era inizialmente stato pensato come un'opera a basso budget. $20,000, pellicola in 16 mm, bianco e nero. Inoltre niente attori professionisti, solo io e i miei amici, niente musiche. Qui invece parliamo di oltre $1,500,000. È il 1992. Il copione di Quentin Tarantino intitolato Le Iene diventa un film. È una storia di malavita violenta e tesa, ambientata quasi interamente in un capannone industriale, uno scenario quasi teatrale. Harvey Keitel riesce a trasformare il film in una produzione di tutto rispetto. Tarantino può esordire con un film dalla confezione brillante. Anche il cast, che oltre a Keitel e allo stesso Tarantino, comprende Michael Madsen e Tim Roth, è costituito da attori di tutto rispetto. Lei che vergine non parla affatto di una ragazza sensibile che incontra un bravo ragazzo. Quella è True Blue, sì, è così, su questo non ci piove. Mentre Tarantino entra nel cuore dello show business americano, c'è chi è costretto a soggiornarvi ai margini. John Travolta osserva colpito l'esordio del regista americano. Mi aveva colpito moltissimo. Mi aveva anche spaventato. Mi ero scoperto attratto in particolare dal personaggio di Michael Madsen. Mi sono chiesto perché lo trovassi così attraente, nonostante nel film facesse cose orribili. Diciamo che mi fece venire voglia di incontrare Quentin Tarantino. Così riuscii a organizzare con lui un pranzo al Four Seasons Hotel e poi prendemmo un secondo appuntamento. Non c'era ancora una ragione specifica per vedersi o una proposta di lavoro. In questo secondo incontro semplicemente mi chiese di fare una cosa che avrebbe fatto felice alcuni dei miei più accanniti fan, e cioè giocare con lui ad un gioco da tavolo. Stavo in pratica realizzando il sogno di Quentin Tarantino. Il bizzarro gioco da tavolo di cui parla John Travolta è quello basato su La febbre del sabato sera, messo in commercio in quegli anni. Tarantino, che aveva amato moltissimo il film e il personaggio di Tony Manero, da buon cinefilo feticista non si era lasciato sfuggire il surreale gioco ispirato al film del 1977. Così, quando John Travolta in persona si trova davanti a lui, non trova di meglio che coinvolgerlo in una partita al gioco ispirato proprio alla febbre del sabato sera. Travolta rimane un po' deluso. C'ero rimasto un po' male, in effetti. Speravo che volesse lavorare con me, invece si comportava semplicemente come uno dei miei fan. Poi mi disse che stava scrivendo un soggetto in cui avrebbe voluto coinvolgermi, un film western ambientato ai giorni nostri, in Messico, con i vampiri come personaggi antagonisti. Strabuzzai gli occhi e gli dissi con un po' di imbarazzo che non ero interessato ai film horror. Questa sorta di bizzarro horror dal sapore western si farà. Si chiamerà Dal tramonto all'alba. Non lo dirigerà Tarantino, ma Robert Rodriguez, amico di Quentin e suo vecchio cliente ai tempi della videoteca losangelina, e lancerà la carriera di George Clooney e Salma Hayek. Mentre Le Iene raccoglie consensi in tutto il mondo, Quentin prepara il suo secondo lungometraggio. Le idee per il secondo film erano nate anche molto prima di Le Iene. Cercavo di immaginare come fare un film senza soldi. E naturalmente ho pensato di realizzare un cortometraggio che avrei potuto utilizzare nei festival come biglietto da visita. Così ho pensato alla storia di un criminale, Vincent Vega, e della donna del suo capo, Marcellus. Poi mi sono detto, perché non scrivere un'altra storia criminale? Poi una terza, girarle una dopo l'altra e poi riunirle insieme. Quando Tarantino può effettivamente compiere questa operazione, realizzare il suo film a episodi, può contare su un budget radicalmente diverso rispetto alle sue idee iniziali. Grazie alle Iene, non ha difficoltà a trovare investitori per il suo secondo film e a mettere insieme oltre 20 milioni di dollari, messi a disposizione in larga parte dalla Miramax. 5 di questi vanno al cast stellare di questo film, che si chiamerà Pulp Fiction. Solo 120.000 dollari vanno invece a John Travolta, che sente passare il suo secondo treno, la seconda grande occasione della sua vita professionale. Non può certo lasciarsela scappare. A quel punto non ero esattamente una star di serie A. So che c'erano persone attorno a lui che gli suggerivano di non scritturarmi. C'erano poi 5 attori molto più adatti di me interessati alla parte e pensavo che l'avrebbero convinto. E non avrei biasimato né lui né la produzione se la cosa fosse avvenuta. Ma lì fu irremovibile. Disse: o faccio il film con John o non lo faccio. La cosa mi galvanizzò, ma mi mise anche molta pressione per le prime 2 settimane. Pensavo, oh mamma, e adesso che Quentin ha lottato per avermi, non posso, non devo deluderlo. Avrà fatto la scelta giusta? Tarantino vuole quindi fortemente Travolta nel film. Lo vuole perché è un suo fan. Lo vuole perché in Pulp Fiction cerca di far respirare al pubblico anche un soffio di anni 70. Lo vuole perché ha una predilezione per i miti pop, adora servirsene, piegarli alle proprie esigenze estetiche. Avrà ragione e lancerà in questo modo la sua carriera e quella di Travolta. Tra poco, a Destini Incrociati. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Destini incrociati. È il 1994. Siamo sul set di Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Qui si incrociano i destini del regista americano e di John Travolta. Il primo cerca la definitiva consacrazione, il secondo il riscatto. Da 10 anni ormai è nel dimenticatoio di Hollywood. Tarantino, resistendo alle pressioni della produzione, l'ha fortemente voluto. Arriva la seconda occasione per John. Non la fallisce e ripaga alla grande chi gliel'ha concessa. John è sempre stato uno dei miei attori preferiti. L'ho adorato in Carrie, ma dove lo trovo veramente straordinario è Blowout di De Palma. Negli ultimi anni lo si è visto sempre meno. Mi dicevo, ma cosa passa nel cervello malato di questi registi di merda? Non è possibile. Non si rendono conto che hanno tra le mani un'arma segreta, un missile sulla rampa di lancio. Nessuno ha mai fatto un'apparizione così fulgorante nella storia del cinema come Travolta. L'unico nome che potrei paragonare a lui è Brando. Così, quando ho scritto il copione, ho pensato a John. John interpreta Vincent Vega, un sicario drogato del clan guidato dal boss Marcellus Wallace. È un personaggio originalissimo, dimesso, quasi sciatto, ma folgorante nel suo divertentissimo approccio al lavoro. Vincent va ad uccidere come un impiegato va in ufficio la mattina, con la stessa naturalezza. Per lui la violenza ha la stessa dimensione ordinaria. È anche la grande carica innovativa del film, che alla sua uscita fa gridare al miracolo i critici e cattura spettatori di tutto il mondo, insieme alla Palma d'Oro a Cannes e a una valanga di nomination agli Oscar. Se ne aggiudica una sola di statuetta, per la migliore sceneggiatura originale. And the Oscar goes to Quentin Tarantino, Roger Ebert for Pulp Fiction. Thanks. Grazie. This has been a very strange year. È stato un anno molto strano. Posso dire che Beh, se fosse stato l'unico premio vinto quest'anno con il mio film, mi metterei ad urlare, direi «Wow, è incredibile, mi strapperei i capelli», ma beh, non è così, per cui vi dico solo grazie. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Quentin è irriverente e sfrontato, sul palco della cerimonia degli Oscar come sul set. Qui si trova a dirigere una delle scene più esilaranti del film e lo fa con grande naturalezza. È la celebre scena del concorso di Twist. In quel momento John Travolta capisce di essere veramente tornato. È il protagonista di un grande film. E come ai vecchi tempi, John balla. They bought a souped up Jitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Sulle note di Never Can Tell di Chuck Berry, una delle tante splendide canzoni che Tarantino sceglie per la sua colonna sonora, Travolta si lancia in un ballo indimenticabile con Uma Thurman. È il momento in cui è evidente che Tarantino sta usando nella maniera più intelligente il mito pop di John Travolta, il quale ricorda divertito il momento delle riprese di quella scena. È la scena in cui mi sono divertito di più. Per girarla pensavo a quel momento di Le Iene in cui Michael Madsen balla davanti al suo prigioniero prima di tagliargli l'orecchio. That reached up to number five as K. Billy Super Sounds of the 70s continued. Ma quello che mi ha stupito, più di ogni altra cosa, è stato vedere Tarantino che mi spiegava per filo e per segno come dovessi ballare. Alla fine, caspita, sono io John Travolta. Sono Tony Manero e questo straordinario regista aveva la pretesa di dirmi come muovermi, quali passi fare. Era esilarante, ma anche gratificante. Tutti mi avevano sempre lasciato fare ciò che volevo, ma era stupido. Un regista deve sapere quello che vuole nell'inquadratura. La gente moriva da ridere a vedere che sul set avevo la presunzione di dare lezioni di ballo a John Travolta. Era il mondo alla rovescia. Era irresistibile. Da quel ballo sfrenato, la carriera di Travolta decolla nuovamente. Per Pulp Fiction, l'attore riceve la sua seconda nomination agli Oscar. Un bel risultato per un artista dato per finito. Poi, negli anni successivi, arrivano film come il divertente Get Shorty, lo splendido Face Off di John Woo, la sottile linea rossa di Terrence Malick e decine di altri blockbuster di grande successo. Tarantino, dopo Travolta, diventa uno specialista nel far rivivere attori che sembrano dimenticati. Nel successivo Jackie Brown ripesca Pam Grier e Michael Keaton. In Kill Bill, dal cappello estrae uno splendido David Carradine. Parole sacrosante. In ogni caso, Quentin Tarantino, dal grande successo di Pulp Fiction, diventa uno dei registi più considerati e ammirati del cinema contemporaneo. Il suo ultimo film, Bastardi senza gloria, ha confermato questo dato e questa fama. Una fama a cui ha contribuito senza dubbio l'incrocio professionale con John Travolta. Travolta, dal canto suo, dopo un periodo splendido e abbondante, ha nuovamente sperimentato l'imprevedibile altalena del destino, trovandosi improvvisamente davanti a una tragedia. Suo figlio, di soli 16 anni, è scomparso a causa di un colpo apoplettico legato alla sindrome di Kawasaki, una rara malattia dell'apparato cardiocircolatorio. Una tragedia che si è immediatamente venata di polemiche a causa dell'appartenenza a Scientology dell'attore americano. Ma questa è un'altra storia, cupa e triste. La storia che abbiamo raccontato, invece, è la storia di una rinascita, di un incrocio professionale di vite e di destini che porta due uomini all'apice delle rispettive carriere, al riparo dai capricci di Hollywood e direttamente nell'immaginario collettivo. Destini incrociati.